Voi lavorate con sesso, vero? Se la gente non vuole morire di freddo, sì. No, nel senso che non vi fermate a causa della pioggia, cioè? Assolutamente no. E poi con questo freddo lavoriamo parecchio noi. Bene, bene. Andare. Perché tanto la temperatura è abbassata, mi ho acceso la stufa adesso. Non è che c'è una casa piccola, cagli subito, sennò guai. Io invece no, io ancora non ho acceso, ma credo che domani mi organizzo, perché effettivamente qua in campagna c'è un po' più di freddo la città. Diciamo la verità che devo accendere la stufa a legna e volevo dargli una pulita prima di fare, invece oggi mi ha fregato. Sai perché? Perché quella, come finisce cosa, devi prenderla e darle una pulita d'estate, almeno ce l'hai, capito? Non devi sapere di nulla, accendi tu. Sì, diciamo che anche tu hai ragione, però qua non funziona così perché mia moglie molte volte ha cartaccia e non fa altro che buttarla lì, capito? E poi l'accende e ciccia, vabbè, vuole pulita. Cavolo, si può attendere un coso di estate? No, vabbè, accumula lì e poi quando diviene bene l'accende, non è che a parte si mette a scendere il fuoco. E allora conviene prendere un lavora a bruciare, che è meglio, forse almeno lo tiene pulito per l'inverno, perché poi magari fa le giornate di freddo e deve, non lo so come si pulisce da dentro, deve anche uscire fuori. Praticamente dovresti pulire la canna fumaria, quindi devi scendere, poi sei sul tetto, pulirlo. Non è che con la legna, insomma, non è che si sporchi tantissimo, però una pulita ogni tanto ci vuole. Ci vuole, sì. E così è. Quando accende la stufa a legna, peccaggio vero. Io ho una stufa un po' particolare. Quando accendo quella scalda parecchio, ma ciuccia un bel puro. Vabbè che a me non me la putti nulla, però tira un po' di gas pure. Certo, adesso mi stavo dando qualche stufa così, a pelle, secondo me la devo vedere un pochino quanto è conveniente, se comprare nuovo o meno, capito? Perché io ce l'ho legna, ma lo vorrei mettere a pellet qua, diciamo, una zona dove muovo io, non la sala, è grande, quindi devo scaldare sia qua che la cucina, quindi intorno ai 60-65 metri quadri deve fare almeno, per due stanze deve fare almeno, capito? Poi se è canalizzato allora ancora meglio, perché faccio un foro e scaldo gli altre stanze. Quelle stufe scaldano un bel, un agaggio. Attendo, c'ho una stufa, di quelle che si attacca sopra la bombola. Io ti mando la fotografia. Attacco quella, non mi occupa posto né niente. Attacco quella e pompa di brutto. Quelle a fungo, come si chiama? Quelle per i fierni sono. Non ce n'è a Sassari, me l'ha venduta uno che era a Sassari, però me l'ha fatta avere, capito? Una di quelle non ce ne trovo, si mette sopra la bombola, cioè morsetti e stringi e scalda. Ma me la faccio vedere che provo a cercarla, molto l'hai pagata. Non me lo ricordo più, ce l'ho parecchi anni. Un prodotto Laminox. Adesso ti mando la foto, scendo giù e ti mando la foto. Un attimo. Scende bene, giusto per sapere com'è, così almeno. Se ne vale la pena metterla qua, perché io sto cercando. Ma queste idro per queste qua non mi vanno bene, a me mi interessa una canalizzata. Devo valutare un pochino, perché non è che voglio spendere chissà cosa, però aspetta che scendo giù ti faccio la foto. Andare. E metti! No, non è arrivato niente ancora. Vedo un attimino. Riesci a vederla? Sì, forse sì. Riesci a vederla. Ah, sì, quelle ho capito quali sono. E quelle che praticamente si usavano nelle cose, nelle stufe normali, però questa qua è molto più grande, caspita. Si attacca sopra la bombola, si attacca questa. Ho capito. Sì, va bene. Caspita, no, guarda, la scalda. Perché è molto più grande della stufa normale di quelle delle bombole, diciamo, no? La Laminox la produce. Laminox, sono certo, ce la vedi, se riesco a trovarla. Quella lì, c'è un sacco di anni ce l'ho, mi guarda, ma un sacco di anni, e funziona sempre bene, è marca italiana. Sì, adesso l'ho visto, la fanfuffia, immagini, vediamo se riesco a trovare, eccole qua. Immagini, ah, un bel di stufa ci sono, però non c'è quella. Però se guardi i prezzi, caspita, non sono neanche, sì, ce ne sono parecchio, che costano parecchio, ma molte anche accessibili, nel senso che 400, 600 euro. Che cosa? Di stufe. Ah, pellet? Sì, sì. Ah, ci ho capito. Ma quella che ho io è a gas. Sì, sì, ho capito. Ma per dire, vabbè, queste sono 900, 900, 700, 697. Scontata al 50% in fattura addirittura. Sono che c'è lo sconto del 50%, però col 50% sto dando in 10 anni quando fai la denuncia del reddito, capito? Quindi puoi spendere anche 1000 euro, tu 1000 euro le paghi in contanti, poi 500 te le rimborsano in 10 anni. Ah, ci sono gli incentivi? Sì, ma in 10 anni, cioè come ti danno 50 euro ogni anno, cioè, neanche li vedi. Via. Ma lo so che questo è cavolo di stufa, ne stanno producendo anche dalla Cina. Ma la cosa ti dico, hanno la cosa molto debole, hanno la, cioè sono molto deboli come stufa. Cioè magari funzionano bene, sì, però di carrozzeria c'ho cucciso. Sì, vabbè, come tutte le cose loro fanno le cose in base a quello che compri, giustamente la lamiera sarà più fine, il motore più debole, vale fare quello, sì, beh certo. Ma niente di che magari la meccanica poi funziona bene dentro, perché io ne ho una cinese, me l'hanno regalata, l'ho messa in deposito e funziona bene, ti dico la verità, però come lamierato, noi usavamo un periodo, usavamo le Sincar Made in Italy, perché robustissime, le abbiamo vendute tante, c'era una signora, cioè, che gli abbiamo data, c'era più di 10 anni, perché prima le vendevamo, poi con ghiaccio bricco, ma cosa ci stiamo stufati, c'era più di 10 anni, non gli è mai successo niente a quella stufa. Lo so, guarda, io, tu pensa che io ce l'avevo 15 anni questa legna, per mia colpa, diciamo, tra virgolette, ho messo il tacco di legna delle pedane, ha raggiunto una temperatura non indifferente e ha spaccato la ghisa, allora l'ho ricomprate e gli ho messo l'acciaio inox spesso 2 cm, adesso non fa niente, non ce la fa a spaccare l'acciaio, capito? Questo è un regalo che hanno fatto, mi hanno dato tra l'altro 50x50 per 2 cm di larghezza, gli ho fatto il pezzo, glielo salvati e rinata, capito? Non ho, invece della ghisa, la ghisa emana, però anche l'acciaio trattiene il calore, quindi, ma poi è una cosa che non si centia, non si gonfia, rimane sempre intatto, capito? Sempre. Il problema è che adesso magari non si rompe l'acciaio, si rompe l'altro pezzo della ghisa che è lo scarico dei fumi, quindi devo cambiare di quello, ma è una stupidaggine quella. Quando raggiungo temperature alte è un bel macello, però già, Ma no, non si può saldare. Ma sì, la ghisa la salda, ma il produttore c'è qualcuno che lo fa. Però non conviene, per prima cambiare il pezzo, costa una stupidaggine, lo metti in acciaio inox e niente. Diciamo che la rottura di scatole è smontarla, perché all'interno dei tubi, i miei tubi sono praticamente ingombrati in mezzo al cemento, quindi c'è giusto lo spazio minimo indispensabile per poterla togliere, ma proprio con difficoltà anche, non è che per ogni anno, io ogni 2 anni la pulisco, quindi la smonto e mi la fatica a toglierla, però è una cosa che deve essere fatta così, perché sennò dovresti rompere il calcestruzzo, togliono il tubo e rimetterlo. Siccome questi tubi qua hanno uno spessore di, mi sembra, 4 mm, sono grossissimi, tu pensa che un giorno sono incazzato, ho iniziato a tirare col primo mazzetta, non ho neanche lesionato, capito? Perché era talmente messo dal cemento, ben messo, che non gli ho fatto niente, ho fatto due gobbetti appena appena e basta. Quelli che vendono oggi sono morbidi. Cosa? Sai cosa è? Perché ha spaccato sicuramente, perché la ghisa ha il vizio di scaldare troppo umbe. È per quello che è successo. Ma tanto anche se non ci avessi messo le tavole ti era successo lo stesso più in là. No, no, così mi ha detto. Mi ha detto il tecnico, perché mi ha guardato in faccia e mi ha detto: ma che legno hai usato? Ah, olivato, olivo, per aiutare un po' di mascelline, ma lui stesso mi ha detto: tacchi, di pedana. Certo, guarda, la passo in garanzia, però evita, perché questa volta te la posso passare, la prossima no. E quindi mi ha dato una dritta. Però non lo sai, quando metti quei tacchi lì sono micidiali, perché mi dura 4-5 ore sempre accesa la stufa senza mai mettere legna, quindi è un risparmio notevole. Tu in magliettina ci stai in casa, magliettina e mutande, non è che... Già scalda, già, maledizione, è buono. Che cosa? Ma comunque il caminetto invece è diverso, il caminetto non scalda così, cioè già scalda forte, però non si spacca almeno. Sì, vabbè, io l'ho eliminato perché se nel campagna ce l'avevo, però l'ho eliminato perché effettivamente sì, scaldava bene, però sai, l'odore del fumo, queste cose qua, insomma, anche quando è bello, è piacevole, per carità, però quando entri in casa senti l'odore del fumo, non è bello. Allora l'ho tolto e niente, ho fatto la scelta di mettere questa stufa qua. Non so, è un po' di piaggoce, poi fa di fumo quasi, un po' di odore, però là, già va bene, è proprio i caggi. La legna scalda tantissimo. Sì, non me la vento. Ma tu pensa che mia madre ci ha preso con la pelle, che lei stesso ha detto: in casa mia non c'è così caldo. Vabbè, dipende da come arrivo. Ma no, proprio è differente il caldo, perché uno è un caldo magari con una fiammella forzato, e questo invece è un caldo, insomma, di fiamma, di più vivo, diciamo. Lo so, la stufa a legna, la stufa a legna, il camminetto, i abusi con la ghigia, anche quella là però sono in ghigia, mi sembra. Un acciaio, sì, non è ghisa, poi acciaio, poi all'interno c'è chi ha il mattone refrattario, oppure chi ha l'acciaio fino stesso. Sì, scalda un bel, te lo sto dicendo, anche quelle a pellet, io ne ho preso una volta, ho aiutato, ma teneva una vara, ammazzami, è poco, era pesante. Secondo me una delle prime era, secondo me quella era in ghisa. Già può essere, io ne avevo trovato una tempo fa, quando andavo a caccia, una stufa di quelle nere con la grigia dorata, l'ovante, peccato che lo usano per bellezza adesso. L'ho preso e l'ho portata a casa, allora tutta ristrutturata, rimessa proprio come doveva essere, perché c'è non è fermato, insomma, guardando un video all'altro, comprando un pezzo nuovo, voleva una cosa la pena aggiustarla, però era tutta in ghisa, tutta completamente in ghisa. E niente, l'ho lavorata la madre, quando era finita l'ho messa alla. Lavorando l'ho messa lì, ma sai il caldo che faceva quello, era proprio potente, proprio forte forte. Poi però con l'andata al tempo anche loro hanno bisogno delle loro manutenzioni, quindi dopo aver fatto quanto lavoro a capo, dopo 5-6 anni che ce l'aveva, allora ho optato per prendersi questa stoffa a pellet, perché effettivamente mio padre insomma non aveva più voglia di fare legna, io sì la busco, ma vuole sempre tagliata, vuole preparata, quindi ci vuole un po' di lavoro dietro, diciamo, nella stoffa a legna. Invece con la pellet, bene o male, prendi un sacchetto, due sacchetti, ce li sbatti dentro e hai il tuo calore quotidiano. Già lo so, è più una questione di comodità che di cosa. Eh sì, ma appunto, io sono andato lì perché ti ho sentito, stavo per andare a mangiare qualcosa perché ancora non abbiamo cenato praticamente, e quindi due cose prima di andare a nanna le butto giù. Ti saluto, tanto vai, ci sentiamo, ti ringrazio dell'equazione e niente, sentiamo le prossimine, ciao, un abbraccio. Ciao, buonanotte, ciao, buonanotte a tutti gli ascoltoni pure. E adesso che ci siamo noi, scaldatevi con le copertine, perché la stufa la sto spegnendo, ciao. Anche io, già c'è caldo qua, ciao.